così mi pare che registri, sì. Dicevo, ci muoviamo su un territorio così irregolare, ambiguo, perché parliamo del cyberpunk come fenomeno letterario. Il cyberpunk è un fenomeno letterario, artistico, se volete, insomma, comunque immaginario. E però al tempo stesso vediamo che i concetti che vengono elaborati da autori di fantasia, come per esempio uno fra i più rilevanti è William Gibson, ci servono anche per definire un processo tecnologico concreto, lo sviluppo concreto delle nuove forme, delle nuove interfacce e così via. Questa ambiguità non ci deve sorprendere troppo, perché poi in fondo appunto la novità delle tecnologie di rete e delle tecnologie virtuali stesse sta proprio in questa mescolanza, in questo sovrapporsi fra la sfera puramente concettuale e la sfera concreta, reale, produttiva, eccetera. Ecco, comunque, vorrei intanto ritornare su alcune questioni di cui parlavamo l'altro ieri, in particolare l'altro ieri ho cercato di definire alcuni concetti, se mi ricordo bene, cioè concetto di possibile, il concetto di virtuale in opposizione o in collegamento al concetto di attuale e anche quello di immaginario, ciò che appartiene alla sfera dell'immagine o piuttosto alla sfera della immaginazione, della creazione di immagini, che si potrebbe considerare come complementare o opposto al concetto di reale. E allora il possibile a cosa fa riferimento? Io proponevo di considerare il possibile come un concetto che introduce a quello di spiegato, cioè di reale, ma reale in questo senso. Perché se noi diciamo che nella presente condizione, che guardando il cielo ne deduco che è possibile che piova, è possibile perché nello stato attuale del cielo, nelle nuvole, è implicita una possibilità, ma il possibile attuale, le nuvole, non è irreale, è reale, come no? Dunque il possibile, a mio parere, poi come dicevo, si tratta di concetti che fin dall'inizio hanno una definizione un po' volubile, ma io direi che il possibile non si oppone al reale. Cioè l'altro rispetto al possibile è l'impossibile, d'accordo, fin qui ci siamo, oppure il complementare rispetto al possibile è il dispiegato. Il reale sì, ma nel senso di realizzato. Ecco, il concetto di virtuale invece si può considerare come una implicazione che anche tra il possibile e il reale dispiegato vi è un'implicazione evidentemente, però il possibile si apre verso la sua realizzazione in maniera non necessaria, anzi, il possibile non è necessario. Qua, se noi diciamo necessario, intendiamo che dal momento che ci sono le nuvole, è necessario, inevitabile, che piova. Mentre, come ci dice l'esperienza, è possibile, ma invece può venire un colpo di vento che le porta via, o chissà cosa, no? O magari viene a nevicare. E quindi l'esistenza delle nuvole non comporta come necessità la conseguenza della pioggia, lo comporta come possibilità, mentre nel concetto di virtuale è implicita una attualizzazione, come qualcosa che è intrinseco e necessario quasi. Virtuale è ciò che contiene realizzazione che noi non vediamo, che non si è ancora data, una attualizzazione, scusate, che non si è ancora data, ma che è implicita nella forma stessa del virtuale. Torno al testo di Caronia. Era semplicemente una nota che volevo aggiungere alle cose dette l'altro giorno. Poi molte altre cose potremmo aggiungere ulteriormente, ma insomma il quadro concettuale che accompagna la formazione di quella realtà che tra gli anni 80 e gli anni 90 si manifesta progressivamente fino a prendere forma compiuta nel modello della rete digitale. Il quadro concettuale riprende concetti che appartengono alla tradizione filosofica, altri ne aggiunge e l'uso che facciamo sul piano tecnologico di questi concetti è un uso qualche volta più letterario che filosofico, insomma, più metaforico che rigoroso. Vabbè. Nel pensiero di Caronia, in questi due libri essenzialmente che sto un po' usando per riuscire a trovare degli elementi da proporvi che siano al tempo stesso di tipo sociologico, comunicologico, tecnologico e letterario, concetti come quelli a cui ho fatto riferimento vengono fuori in un continuo riferimento, in una continua mescolanza, vorrei quasi dire, con la letteratura. Caronia, che pure aveva una formazione filosofica significativa, importante e soprattutto scientifica, però è prevalentemente, e si vede che è la cosa che gli piace di più, critico letterario, non mi piace l'espressione, è uno che si occupa di letteratura, lo fa d'altra parte in molte maniere, come sapete. Per molti anni ha vissuto traducendo dall'inglese e traducendo autori di grande importanza sul piano letterario, non solo sul piano del genere fantascienza, autori come Ballard per esempio, più di tutti, oppure come Burroughs e così via. Ecco, alcune delle questioni che vanno al cuore della problematica filosofica o sociologica di cui si occupa la cibercultura o di cui si occupa il cyberpunk, li troviamo quasi come annotazioni letterarie. Difatti, adesso mi piacerebbe leggere alcune pagine dedicate a William Gibson e vedremo come questa sovrapposizione accade. Prima di arrivare però a questo testo su Gibson e quindi alla problematica letteraria centrale del cyberpunk, vorrei ritornare alla storia, cioè alla storia della formazione della rete e di tutto quello che l'accompagna sul piano ideologico, sul piano culturale e così via. Mi pare che abbiamo già parlato abbastanza, insomma, di storia della rete, che poi sono argomenti che già un poco conoscete, ma io mi voglio soffermare e diciamo. La cosa che mi interessa di più, evidentemente, ma che interessa di più anche a Caronia, bisogna dire, la cosa su cui mi voglio soffermare è l'aspetto ideologico, cioè le immaginazioni, ideologie, teorie, anche quasi gli stati d'animo che si collegano con lo sviluppo delle tecnologie. Per l'altra volta dicevo che vi è un filone tecnofilo e vi è un filone tecnofobo in generale nella cultura del Novecento, ma in particolare nell'approccio letterario alle nuove tecnologie. È naturale, d'altra parte, le nuove tecnologie agiscono in maniera così profonda, così radicale e così innovativa, non soltanto sull'ambiente esterno, ma sulla sfera, diciamo, della soggettività, sulla sfera cognitiva, sulla sfera emotiva, sulla sfera relazionale e così via, che non dobbiamo stupirci del fatto che immediatamente il discorso su queste nuove tecnologie provochi sviluppi delle immaginazioni molto coinvolgenti, molto emotive. E se, beh, sarebbe interessante ricostruire l'intera storia di queste reazioni. Possiamo andare un po' rapidamente e dire che negli anni 80, quelli in cui ancora il fenomeno del digitale e della rete appaiono all'orizzonte come una possibilità che comincia a manifestarsi, abbiamo una prevalente visione ottimistica, tecnofila e diciamo positiva del futuro cyber che si sta preparando. Negli anni 90 invece il pensiero critico problematizza in maniera più diciamo più pessimistica le evoluzioni della nuova tecnologia, e l'immaginazione si carica di elementi più drammatici, ed è l'emergere pieno del cyberpunk. Oddio, adesso mi rendo conto del fatto che quello che ho detto cronologicamente non è poi del tutto vero. Voi avete visto l'altro giorno Videodrome alla fine, beh, Videodrome dell'84, se non mi ricordo male, degli anni 80 comunque, e così come Blade Runner dell'82, dunque già nell'82 una percezione tutt'altro che tranquilla o ottimistica della tecnologia andava emergendo. Quindi, insomma, questa duplicità, tecnofilia, tecnofobia è implicita in tutta la storia, dell'approccio, immaginativo, artistico, letterario a queste tecnologie, perché queste tecnologie hanno, come già dicevamo, un'implicazione, una natura che è invasiva, essenzialmente invasiva, nel senso che non abbiamo più a che fare con la macchina esterna che i futuristi esaltavano senza tanta ambiguità, non abbiamo più a che fare con lo sviluppo di una tecnologia che trasforma il mondo e quindi trasforma anche l'ambiente umano, certo, ma che non interferisce direttamente con la corporeità, con la condizione stessa degli esseri umani. E le tecnologie digitali sono evidentemente tecnologie che intervengono nel tessuto stesso dell'esistenza umana, inteso come tessuto organico, vedi per l'appunto Cronenberg, il Videodrome, o nel tessuto cognitivo, nelle forme della cognizione, della memoria, del linguaggio, eccetera, eccetera. E dunque la problematizzazione, insomma, l'approccio è più guardingo e alla fine più vorrei dire preoccupato. Mi viene in mente a questo proposito un nome, ecco, sì, il nome di Bill Joy. Bill Joy non è un letterato, è decisamente un tecnico. Non so se qualcuno ha sentito nominare Bill Joy, un personaggio che era molto noto negli anni 90, direi. Era il presidente della Sun Microsystems, quindi una delle grandi aziende della softwareistica mondiale, direi anzi proprio la numero due dopo Microsoft. Bill Joy ha avuto un ruolo decisivo nella creazione dei software Java, e quindi diciamo un ruolo di primissimo piano nella creazione delle tecnologie digitali che rendono possibile il passaggio alla rete. E nell'anno 2000 Bill Joy viene alla ribalta diciamo della cibercultura, per un articolo che viene pubblicato dalla rivista Wired. Adesso vediamo tutte le cose, mettiamo tutto a posto. L'articolo si intitola Why the Future Does Not Tease Us? Perché il futuro non ha più bisogno di noi. Dunque, l'articolo esce su Wired e già questo è interessante perché Wired ha sempre avuto, credo di aver già citato questa rivista un paio di volte, ma non ne ho mai detto i caratteri in modo preciso, invece vale decisamente la pena. Wired è fra tutti gli organi culturali, insomma fra tutte le manifestazioni culturali, forse è quella che più di ogni altra esalta, sostiene e direttamente contribuisce a sviluppare la rete come concetto e come realtà. Fino dal Wired esce nel 1993, comincia ad uscire, o forse 92, e quindi proprio in contemporanea con la rete. Ma nei primi anni non tutti, anzi solo pochi, scommettevano sul futuro di internet. Si poteva pensare che vabbè, sarebbe stata una moda culturale che avrebbe influito marginalmente sulla vita italiana, soprattutto sull'economia. E invece Wired fin dal principio si lancia in una battaglia culturale, ma anche estetica e anche direttamente politica, fondata sull'idea che internet è destinata a sconvolgere completamente non soltanto la tecnologia, ma le stesse forme della produzione economica. Tra il 92, pensate al fatto che fra il 92 e il 95, cioè nei primi tre anni di commercializzazione di internet, Microsoft, che è la più grande azienda di software, e particolarmente il direttore, insomma il presidente, il capo di Microsoft e anche il cervello di Microsoft, Bill Gates, avevano avuto nei confronti della rete un atteggiamento piuttosto distaccato, tant'è vero che non c'è un impegno diretto di Microsoft nella creazione e nella produzione di un software per la rete. Semmai questo era stato il campo su cui aveva lavorato di più Apple negli anni e nei decenni precedenti. Naturalmente voi capite benissimo che quando parlo di quello che accade in 2-3 anni mi sto riferendo anche ad un lavoro molto più lungo, perché programmare, rendere possibile, creare una interfaccia non è cosa che si fa sulla base di una improvvisa decisione, implica un impegno di lungo periodo di un grande numero di tecnici, implica delle scelte che riguardano la produzione, l'immagine dell'azienda, eccetera, eccetera. Quindi sto parlando di uno spostamento dell'ottica che avviene un po' lentamente. Solo nel 1995 Microsoft decide di impegnarsi in modo significativo nella direzione della rete, e lo fa attraverso la produzione della serie Windows 95 e particolarmente della interfaccia di navigazione che si chiama Explorer, che provoca una serie di polemiche, di discussioni, perché molti, anche molti giudici, mettono in dubbio la legittimità dell'operazione di Microsoft. Ma come, un'azienda che è impegnata nella produzione di software e macchine, diciamo così, non può agire anche sul piano della creazione di un'interfaccia di navigazione, perché questo crea, mi pare che si chiami un cartello orizzontale o non so bene come, cioè crea una situazione di predominio sull'intera produzione, e questo, secondo la legislazione antitrust degli Stati Uniti, è cosa discutibile. C'è un processo, in alcuni casi Microsoft viene condannata, in Europa il processo si trascina per un periodo molto lungo. Insomma, è in discussione questa faccenda, ma quello che è importante capire è che solo lentamente le grandi aziende di produzione digitale, informatica, si sintonizzano sulla nuova velocità della rete. Sicuramente quella che aveva avuto una maggiore lungimiranza su questo piano è stata Apple, che fin da principio nasce con una concezione fortemente spostata verso la connessione, mentre aziende come IBM e Microsoft invece avevano avuto all'inizio una propensione per concepire il computer nella sua, diciamo, come personal computer, l'idea del mainframe, l'isolamento, eccetera, eccetera. Ma insomma, comunque, nel corso degli anni 90, Wired, anzi fin dal 92, fin dal suo inizio, Wired svolge una campagna culturale, vorrei quasi dire pubblicitaria, che insiste sull'idea che la rete, la connessione, è destinata a ridefinire l'intero quadro. L'intero quadro della produzione della tecnologia, ma anche l'intero quadro dell'economia, della vita quotidiana. Ecco, questo comincia a diventare vero, evidente, negli ultimi anni del decennio 90, diciamo dopo il 97, ecco, dal 97 in poi l'innovazione prodotta da internet diventa evidente dal punto di vista dei risultati economici, dei risultati di borsa, della rapidissima valorizzazione delle aziende che agiscono nella rete. Diventa evidente per la moltiplicazione delle cosiddette dot-com, cioè aziende che agiscono essenzialmente nell'ambito virtuale, nell'ambito della produzione di tecnologie o di servizi per la rete, eccetera. Wired ha anticipato questa tendenza e Wired continua ad essere per tutti gli anni 90 e anche negli anni 2000 una sorta di diciamo espressione culturale, anche estetica, della cultura di rete, non della cibercultura, ma precisamente diciamo, della net cultura di questo. Se avete mai preso in mano una copia di Wired, anche nella tremenda edizione italiana, che però mantiene, sia pure in forma ripulita ed edulcorata, però mantiene l'impostazione grafica originaria, beh, provate a immaginare quel tipo di estetica, diciamo, i colori acidi, una composizione che è costituita di continui rimandi a qualcosa, la strutturazione ipertestuale della pagina in qualche modo. Provate a immaginarla nei primi anni 90 per capire quale innovazione questa abbia portato. Quindi, insomma, Wired è stato negli anni 90 il portabandiera dell'innovazione di rete. È stata anche il portabandiera di alcune altre cose, questo bisogna pur dirlo. Per esempio, nel 1995 pubblica, mentre in America ci sono le elezioni per il Congresso, non le elezioni presidenziali, quelle per eleggere i parlamentari, insomma, E in quella occasione Wired pubblica, poco tempo prima delle elezioni, una intervista a piena pagina con la copertina a Newt Gingrich, un orribile personaggio del Partito Repubblicano, cristiano integralista. Preferisco non parlarne, che altrimenti. Insomma, una sorta di anticipazione di George Bush, e ho detto tutto. E questo personaggio viene intervistato come un rappresentante, non perché è repubblicano però, ed è, diciamo, un ultraliberista. Ma la ragione per cui viene intervistato è che in un suo documento, quello con cui si presenta alle elezioni, che si chiama Contratto con l'America, Gingrich ha insistito molto sulla novità rappresentata dalla rete. Gingrich ha una forte percezione dell'innovazione economica della rete, ma a questo aggiunge, e questo è il punto concettualmente più interessante, una tesi che è quella a cui ho già fatto riferimento, secondo cui la rete enfatizza, esalta, porta ad emergenza la mano invisibile, diciamo il carattere puro del mercato, il fatto che solo l'ideologia neoliberista o liberista è in grado di interpretare la vera profonda tendenza, la vera profonda dinamica che si manifesta nell'economia di mercato e che si manifesta parimenti nella rete. Quali sono gli elementi di questa analogia? Forse ve lo ricordate. Adam Smith, economista fondatore del pensiero liberista moderno, afferma che in un'economia di mercato gli agenti, le aziende, i lavoratori, gli imprenditori, tutte le forze sociali devono essere lasciate completamente libere nel loro operare, perché la libera interazione fra agenti che perseguono puramente il proprio interesse realizzerà nel lungo periodo una perfetta razionalità e una ottimizzazione delle possibilità implicite in quel sistema, cioè che tutti facciano quello che è nel loro interesse, e questo nel lungo periodo si manifesterà come il massimo di utilità per tutti. Questo è ciò che sosteneva l'economista Adam Smith, e questa teoria diventa il fondamento del pensiero e della pratica del neoliberismo nell'Ottocento come nel Novecento, come oggi. Liberiamoci di tutti i vincoli, di tutte le regolazioni di tipo legale, sindacale, morale, ambientale, così via. Permettiamo all'economia di fare tutto quello che vuole fare per l'incremento e la massimizzazione del profitto. Alla fine ci renderemo conto del fatto che questo è il più perfetto dei mondi, perché il gioco indipendente, libero dei fattori economici, finisce alla fine per realizzare il massimo interesse di tutti. Bene, questa ora. Nell'emergere del fenomeno di rete è possibile individuare una analogia con l'economia di mercato, e difatti poi come è nata la dinamica che porta la creazione di Internet negli Stati Uniti, è nata con la eliminazione già negli anni Ottanta da parte del presidente ultraliberista Ronald Reagan, l'eliminazione delle compagnie telefoniche di Stato, le sette compagnie, no, dunque esistevano alcune compagnie, non mi ricordo, due, tre, grandi compagnie che quasi costituivano una forma di monopolio. Reagan le scioglie, azzera per rendere possibile a molte compagnie molto più dinamiche di agire e di animare in questo modo il mercato telefonico. Effettivamente bisogna dire che quel atto di Reagan rese possibile una vitalizzazione del mercato telefonico che prepara già dagli anni Ottanta, prepara poi la creazione del terreno su cui la rete potrà costituirsi, moltiplicando anche le infrastrutture di ogni genere, fino a quella della fibra ottica, eccetera, eccetera, che hanno reso possibile un rapido sviluppo dell'internet. Bisogna dire che nel corso degli anni 90, poi la politica americana ha una capacità di comprensione del ruolo che internet sta svolgendo. Non soltanto Newt Gingrich, non soltanto i repubblicani, anche Clinton, che in quegli anni è presidente degli Stati Uniti, fra il 92 e il 2000, anche Clinton a un certo punto comincia a ragionare sulla questione della rete, però lo fa con un atteggiamento che è un po' diverso da quello dei repubblicani. Clinton dice che il governo, lo Stato, deve mettere a disposizione della rete quelle che lui chiama la information highway, le autostrade dell'informazione, cioè secondo Clinton lo Stato deve costruire le infrastrutture, le portanti essenziali che rendano possibile la proliferazione dell'utenza di rete e così via. Naturalmente la questione intervento dello Stato o libertà completa del mercato, è una questione che viene ereditata dalla vecchia discussione tra liberismo e statalismo, o piuttosto, diciamo, liberismo e intervento statale nell'economia, una vecchia questione su cui la politica americana, come anche la politica europea, si è sempre divisa fra liberisti e socialdemocratici o socialisti, o chiamateli come vi pare, keynesiani sul piano dell'economia monetaria. Insomma, il liberismo sostiene che l'economia di mercato deve essere lasciata totalmente libera di agire senza nessun tipo di regolazione né di intervento di Stato, mentre l'altra componente politica, l'altra parte politica sostiene che talvolta o sempre, a seconda poi delle accentuazioni, naturalmente lo Stato deve intervenire nell'economia, deve intervenire utilizzando la funzione monetaria, deve intervenire pilotando e guidando certe scelte di investimento, o deve intervenire regolando, limitando, legiferando, per difendere l'ambiente o per difendere i diritti umani, eccetera, eccetera. Questa vecchia questione viene in qualche modo ridefinita dalla tecnologia della rete. Perché? Perché la rete appare come una dimensione nella quale innumerevoli agenti, non li chiamerò utenti, li chiamerò piuttosto agenti, perché l'utente è qualcuno che si limita, diciamo, a usare la macchina. L'agente è uno che usa la macchina, ma nell'usarla agisce, crea, produce qualcosa, introduce, innova. Ogni utente in internet è anche in qualche misura anche limitatissima, sempre un agente. Ebbene, nella ideologia liberista, diciamo così, sulla rete, si ritiene che la infinita ricchezza, potenza e intensità produttiva di un numero illimitato di agenti che interagiscono fra di loro non possa essere, non debba, ma neanche possa essere controllata, governata da nessuna forza esteriore. Ho già citato a questo proposito il libro di un biologo che però è anche giornalista e che è anche direttore di Wired, che si chiama Kevin Kelly. Ho citato in particolare una sua opera che esce nel 1993 col titolo Out of Control. Fuori controllo, il titolo originale viene mantenuto anche nell'edizione italiana che potete trovare, insomma è stato pubblicato da Apogeo, non so se è ancora in circolazione, il libro è molto interessante, che ben scritto. E la tesi di Kevin Kelly è una tesi al tempo stesso iperliberista e vorrei dire anche iperottimista, che egli sostiene sostanzialmente che la complessità di un sistema nel quale innumerevoli agenti interagiscono fra di loro non può essere controllata e neanche conosciuta da nessuna, diciamo così, mente subglobale. Cioè, la mente globale deve necessariamente regolarsi da sola, perché nessuno, nemmeno il più potente degli agenti, diciamo lo Stato, il governo degli Stati Uniti d'America, nemmeno lui è in grado di controllare quella infinita complessità. Si pone qui una questione molto interessante, che è quella della complessità e della possibilità di comprendere e di governare sistemi complessi, che è una delle questioni fondamentali del pensiero contemporaneo, no? Cos'è la complessità? Quando diciamo complessità, a cosa ci stiamo riferendo? Una cosa è troppo difficile. No, ci stiamo riferendo al fatto che un sistema è troppo veloce perché la mente umana possa, diciamo così, conoscerlo analiticamente e quindi governarlo. Io direi che la questione della complessità è una questione di velocità o di intensità dell'informazione, e la complessità è sempre complessità in funzione di complessità in funzione del cervello. La complessità non è un valore assoluto, non possiamo calcolare la complessità di un sistema in termini assoluti. Complessità è complessità rispetto a qualcuno, qualcosa, rispetto a cosa? Rispetto al cervello umano, al cervello individuale, al cervello collettivo. E quindi con la parola complessità Kevin Kelly definisce questo carattere della rete, per cui essendo la rete l'intersecazione di tutti i cervelli agenti, comunicanti, nessun cervello che è subglobale può essere in grado di conoscere l'intero e dunque neppure di governarlo. Di conseguenza dice che lì dobbiamo rinunciare alla pretesa del controllo, una pretesa diciamo che è profondamente iscritta, se ci pensate, nella storia della politica moderna, perché cos'è la politica? Da Machiavelli in poi, no? Nell'epoca moderna, cos'è la politica? È la capacità di governare, cioè di sottoporre regolamenti una realtà che può essere governata. Nell'epoca di Machiavelli o nell'epoca moderna in generale, l'informazione circolante era sufficientemente poca. La grande massa della popolazione stava nei campi e faceva sempre la solita cosa che sappiamo benissimo, non c'è bisogno di fare molta fatica per immaginarsela. Insomma, lo Stato moderno, prego, lo Stato moderno agisce in condizioni di complessità limitata e dunque può esercitare una funzione di governo effettivo, ma quando la complessità esplode, essenzialmente poi complessità è complessità di informazione, è la intensità, la velocità dei cicli informativi, degli scambi informativi, della produzione informativa. Quando la produzione e la circolazione di informazione diventa troppo intensa, troppo veloce per poter essere conosciuta, controllata, dominata, regolata, ciao, dal cervello umano, dallo Stato come cervello centrale, a quel punto la politica diventa un'arte impossibile. E difatti noi non parliamo più di governo, se ci fate attenzione, se non così per farci quattro risate, parliamo di governance. Non so se avete mai pensato a cosa vuole dire la governance finanziaria. C'è qualcuno che mi suggerisce una interpretazione della parola governance non vuole dire la stessa cosa che governo. Governo vuole dire capacità di conoscenza e di controllo. Di conoscenza più che controllo, di conoscenza e di dominio, di determinazione, cioè il fatto che se io conosco posso anche decidere che quella cosa lì deve accadere in un altro modo, posso introdurre delle regolazioni che realizzano quello che io voglio ottenere. Governance significa invece introduzione di automatismi. Se ci pensate, l'attività dello Stato oggi non è tanto quella di fare leggi che cambiano qualcosa, le leggi non cambiano niente ormai, sì, puoi decidere qualcosa, ma tanto la realtà è troppo forte, è troppo veloce, è troppo complessa per poterla governare con le regole. Mentre con le regole, diciamo, normative, mentre ciò che conta davvero sono gli automatismi, per esempio gli automatismi finanziari. Cos'è un automatismo? Un automatismo è un protocollo che prevede che a determinate condizioni, a determinate precondizioni, corrispondono certe conseguenze, o prevede che per poter avere accesso a certe possibilità devi possedere certe caratteristiche, per cui ogni qualvolta si verifica una determinata condizione è già stabilito non dalla volontà umana, non dalla legge, ma da automatismi tecnici o tecnolinguistici, è già implicita lo sviluppo degli eventi. Se tu vai in banca e chiedi un prestito, non è che il direttore di banca fa delle ipotesi, dice ma questo è un bravo ragazzo, no, non è così, non può decidere. Tu riempirai un formulario, il formulario viene letto da una macchina che a certe condizioni risponde no, il mutuo non glielo posso dare, non posso decidere diversamente perché è previsto, è iscritto all'interno della struttura stessa che a determinate informazioni corrispondono a determinate conseguenze. Ecco, questa è la governance. Quando dopo le elezioni in Italia il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha convocato una conferenza stampa e si è guardato intorno, un tipo spiritoso, e ha detto beh, vedo che i giornalisti qui presenti sono molto eccitati per i risultati, alcuni spaventati per i risultati delle elezioni italiane, che voi ricordate come sono andate piuttosto confusamente e soprattutto piuttosto ingovernabilmente. Cioè Draghi parlava della ingovernabilità, prendeva atto del fatto che in Italia non ci può essere governo. E lui ha detto, ma vedo che siete piuttosto eccitati da tutto questo. Io no, perché so che le politiche europee si vanno avanti col pilota automatico. Frase di grande densità concettuale che mostra che Mario Draghi non è un cretino, è solo un tipo spiritoso. Cosa voleva dire per l'appunto? Voleva dire che nessuna volontà politica, nessuna decisione politica, il popolo italiano, chi se ne frega, quello non può cambiare la direzione. La direzione è già stabilita. Voi deciderete quale dei due Letta debba andare al governo, insomma, questo è quello che deciderete voi, ma non la sostanza, ok? D'altra parte, forse vi ricordate anche che 2 anni fa, sì, il presidente della Repubblica Greca, Giorgi Papandreou, un giorno venne posto di fronte a una serie di diktat molto duri da parte della cosiddetta troica finanziaria europea, insomma della banca centrale e così via. E di fronte a queste richieste durissime, tagliare gli stipendi dei dipendenti pubblici, tagliare i finanziamenti per la scuola, tagliare i finanziamenti per la sanità, eccetera, eccetera, lui disse, scusate, ma io penso che dovrò convocare un referendum per poter chiedere al popolo greco se è d'accordo con queste misure o se preferisce invece dire di no e poi vedremo come andrà a finire. Ecco, Papandreou la mattina dopo non era più presidente della Repubblica Greca. Cosa sia successo quella notte non lo sappiamo, lo sa Papandreou e non ce l'ha detto, ma sicuramente le pressioni che sono state scatenate contro lui l'hanno costretto notte e tempo a dare le dimissioni. Al posto suo è andato tal Papademos, funzionario della Goldman Sachs, agenzia della governance internazionale. Ecco, dunque, questo ci spiega che cosa vuole dire governance, ma ci spiega anche che cosa vuole dire automatismi finanziari, ci spiega anche che cosa vuole dire che la volontà umana non è più in grado in nessuna maniera di governare. Il paradosso è che il pensiero liberista, che comincia dicendo nulla deve dominare, governare, regolare l'andamento libero, perfettamente libero dell'economia, e quel pensiero liberista doveva finire nella governance. Cioè nessuna volontà, nessuna legge, nessun sindacato, nessuna regolamentazione ambientale deve limitare la libertà degli agenti economici. Gli agenti economici devono essere perfettamente liberi. Fino al momento in cui la complessità di un sistema di questo genere non finisce per produrre delle non regole, perché non sono regole, nessuno le ha decise, degli automatismi, cioè delle implicazioni logiche, tecnologiche, linguistiche, informatiche e così via, per le quali l'andamento, lo svolgimento dell'economia stessa è rigorosamente incastonata, incastrata all'interno di automatismi. Ecco, io avevo cominciato a parlare di Bisogni e poi mi è sfuggito per la strada, ma ora ci ritorno. Insomma, volevo dire, buona giornata a vederci, volevo dire che nel 2000 Bill Joy scrive questo articolo intitolato "Perché il futuro non ha più bisogno di noi", lo pubblica su Wired. La cosa mi colpì molto all'epoca perché il contenuto dell'articolo è fortemente critico, molto distante dallo spirito di quella rivista. La rivista Wired, come ho detto, è stata l'anticipatore, l'antisignano, il portabandiera sia della rete, della potenza trasformativa della rete, sia anche della ideologia liberista, del modello liberista che ha proceduto così, in maniera così coordinata, così vicina allo sviluppo della rete. Quindi Wired è certamente l'organismo, l'organo culturale che si identifica, che esalta la versione neoliberista dello sviluppo di internet e che esalta la potenza di arricchimento in tutti i sensi della rete. Nel 98 Wired era uscito con un numero intitolato The Long Boom, il lungo boom economico, in cui sosteneva, devo dire con una certa imprudenza, che nei 25 anni successivi l'economia avrebbe sempre continuato a procedere con una tendenza di crescita. Secondo quel numero di Wired, la net economy, lo sviluppo della rete, creava una condizione nuova per cui la crisi non sarebbe più avvenuta. Naturalmente su questo punto Wired è stato smentito abbastanza clamorosamente negli anni successivi, ma insomma non importa. Quello che interessa a me è insistere sul fatto che Wired è la rivista della rete e del modello neoliberista. Bene, tutto ad un tratto nell'anno 2000 esce su questa rivista, che è una rivista, intendiamoci, libera, entro, insomma, che non è un organo di partito, quindi ospita anche delle opinioni in qualche modo dissonanti, esce questo articolo di Bill Joy, Perché il futuro non ha più bisogno di noi, che è un articolo molto sorprendente, impressionante, che io non esiterei a definire un articolo cyberpunk, nel senso proprio anche del tono. Se volete, questo articolo lo trovate online, è uno dei testi che hanno circolato di più per anni, e lo trovate digitando Bill Joy, J-O-Y, e il titolo dell'articolo è Why Future Does Not Need Us, o Does Not Need Us Anymore, ma forse non c'è di nuovo, perché il futuro non ha bisogno di noi. Il testo è impressionante, perché inizia con una... Prima Bill Joy dice: chi sono io? Vorrei che... Non pensate che sono un anarchico, uno scrittore di quelli cyberpunk. Io sono un tecnico, e anzi... uno che in questo campo ha realizzato un'impresa di grande successo, mi piace il lavoro che ho fatto, eccetera, eccetera. Tutto bene, ho lavorato nel campo della softwareistica e dell'alta tecnologia. E però nell'ultimo periodo sono tormentato dall'angoscia. Mi rendo conto infatti degli effetti che le tecnologie, non so se lui usa questa espressione, insomma, comunque le nuove tecnologie, io userei l'espressione ricombinanti, mi rendo conto del fatto che queste nuove tecnologie stanno distruggendo la possibilità stessa della libertà, della volontà umana. E si concentra poi, in particolare, abbastanza sorprendentemente, sulle nanotecnologie e sugli effetti di devastazione ambientale che le nanotecnologie, la biogenetica, l'incrocio fra ricerca biologica e nanotecnologie, l'effetto di distruzione ambientale che queste possono avere, prima di tutto sul corpo umano e poi sull'ambiente circostante. La direzione su cui ragiona concretamente Bill Joy molto particolare, ma quello che è interessante è il suo ragionamento generale, cioè lui dice proprio le tecnologie, le due grandi tecnologie ricombinanti del nostro tempo, che sono l'informatica, la biogenetica. Possiamo chiamarle ricombinanti perché sono accomunate da un unico principio, il principio secondo cui lo sviluppo di una tecnologia e di queste tecnologie è essenzialmente fondato sulla ricombinazione di elementi informativi di base. Se ci pensate, sia l'informatica che la genetica si fondano sulla idea e sulla realtà tecnologica di unità di base, che sono i bit nel caso dell'informatica, i gene nel caso della biotecnologia, e queste unità di base vengono considerate in sede tecnologica come delle pure unità di informazione che possono essere ricombinate secondo finalità che possono introdurre mutazioni nell'organismo o nel sistema informativo medesimo. Dunque, la novità di queste tecnologie è il fatto che non lavorano più sulla materia, bensì sull'informazione. Anche la biogenetica, che agisce certo sulla materia fisica del corpo umano, però non lavora sulla materia, la biogenetica, lavora sull'informazione genetica. È l'informazione genetica l'oggetto della manipolazione compiuta dalle biotecnologie, allo stesso modo che l'informatica agisce su delle differenze 0-1, dette anche bit, che hanno un carattere puramente informativo, e la tecnologia informatica è manipolazione di questa differenza essenziale di informazione. Ecco, secondo Bill Joy, questo livello della tecnologia rende possibile una autoalimentazione, una autoriproduzione delle macchine medesime, delle tecnologie medesime, tali da rendere l'umano, inteso come organico intelligente, diciamo così, irrilevante rispetto al futuro. È interessante che nell'articolo di Bill Joy viene fuori proprio un riferimento alla dimensione del futuro. E naturalmente tutta la letteratura di fantascienza in qualche modo, in modi diversi, fa riferimento al futuro. Però non solo la letteratura di fantascienza, se ci pensate bene vi rendete conto del fatto che la cultura del Novecento è potentemente motivata dal riferimento al futuro. Anzi, sarebbe interessante proprio approfondire il discorso in questa direzione e chiederci cos'è il futuro. È forse una dimensione naturale dello spirito umano? Oddio, sì, naturalmente noi tutti sappiamo che dopo l'istante presente ce ne sarà un altro, a meno che non mi venga un infarto e questo tronchi la mia temporalità. Ma il futuro non viene meno solo perché il mio organismo cosciente si spegne. Altri organismi coscienti continueranno ad interagire col futuro, ma ecco, intanto però perché ci sia il futuro, perché si percepisca il futuro, occorrono degli organismi coscienti. Il tempo, come sapete bene, non è una dimensione obiettiva, Il tempo è una durata percepita da un organismo cosciente. Il tempo è la percezione di un svolgersi dell'esistenza. C'è un filosofo francese che si chiama Henri Bergson, che ha scritto delle cose fondamentali su questo argomento e parla, sostituisce alla parola tempo la parola durée, durata. Non c'è tempo, c'è la durata, e la durata implica evidentemente un organismo che dura nel tempo e che registra lo svolgersi di questa temporalità, di questa durata. Ma dunque noi sappiamo che c'è il futuro inteso come durare dopo l'adesso, però quando noi diciamo futuro, almeno dall'inizio del Novecento in poi, e poi non solo, già dall'Illuminismo in poi, vorrei dire, diamo una connotazione particolare alla parola futuro, il futuro dei moderni, il futuro dei moderni è la crescita, è l'espansione. Il futuro è sempre radioso per i moderni. C'è l'idea, che non è un'idea, ma che è proprio una realtà profondamente percepita, che nel futuro ce ne sarà di più di quello che c'è nel presente. Perché? Perché questo è il futuro del capitale, il futuro della modernità. Il capitalismo è una macchina espansiva. Non può esserci capitalismo senza espansione, o meglio, quando l'espansione si blocca, come sapete, il capitalismo va in tilt, si parla di recessione, di depressione e così via. Occorre che ogni ciclo produttivo espanda la massa di beni esistenti. Questa si chiama la crescita. Con una parola un po' più nobile possiamo chiamarla l'espansione. L'espansione non è solo la crescita economica, è anche l'allargamento degli orizzonti culturali, conoscitivi, territoriali, di consumo, eccetera, eccetera. Dunque l'espansione è connaturale al futuro per i moderni. Poi arrivano i futuristi, no? All'inizio del Novecento. Andate a leggervi il manifesto futurista del 1909 di Filippo Marinetti e vedete che cosa dice del futuro. Il futuro è luminoso mentre il passato è oscuro e soprattutto l'idea di futuro si fonda sull'idea della velocità, dell'accelerazione. Che il futuro è luminoso e il passato oscuro, badate bene, non è un'idea ovvia, naturale, umana, tutto il contrario. Se pensate all'umanità medievale, nel Medioevo è vero esattamente il contrario. Nel passato, nel lontano passato, c'è la perfezione, Dio, poi c'è la caduta. E il futuro è lo svolgersi di una caduta. Nel mondo medievale, che dal punto di vista economico è un mondo, diciamo, ripetitivo, immutabile, non in crescita, nel mondo medievale la percezione del futuro è una percezione sempre, spaventata, la consapevolezza della malattia, della morte, della carestia. Mentre la perfezione stava dietro, nel momento in cui Dio si identificava col mondo. E, lo dico per chiarire cosa voglio dire quando dico che il futuro è una categoria culturale, storica, non naturale. E dunque, all'inizio del Novecento, con il futurismo, questa idea del futuro come energia che si scatena e produce un'espansione e soprattutto produce una accelerazione. Questa idea l'affermazione centrale del movimento futurista. Come sapete benissimo, il movimento futurista italiano e anche russo possono essere considerati come il punto di massima condensazione di tutto quello che poi accadrà nell'avanguardia. Le avanguardie del Novecento sono in un certo qual modo inaugurate sì, insomma, dall'energia futurista. Pensate agli anni 30, agli anni 40, agli anni della guerra, cioè gli anni probabilmente più spaventosi che l'umanità abbia mai conosciuto, gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Pensate, non so, a quello che poteva essere la città di Stalingrado nell'inverno fra il 1942 e il 1943, quando 1 milione di morti. rimangono sul terreno in seguito alla battaglia più spaventosa di tutti i tempi. Beh, però ecco, in quella battaglia, sia da una parte che dall'altra, c'era gente che pensava al futuro radioso, i comunisti, i nazisti, i democratici, cioè le grandi ideologie che si scontrano nella guerra, nella carneficina della Seconda Guerra Mondiale, quei contendenti hanno tutti in mente l'idea che il futuro sarà meglio del passato. È quasi commovente, pensare una cosa di questo genere. Ecco, possiamo dire la stessa cosa di noi, del nostro tempo? Ecco, io credo che la cosa più decisiva che si è verificata a un certo punto, poi bisognerebbe vedere qual è quel certo punto, è proprio il cambio di segno del futuro. Da un certo momento in poi l'umanità ha smesso di pensare che il futuro sarà meglio e ha cominciato a rendersi conto o a immaginare che il futuro sarà peggio, che il futuro è non espansione ma contrazione, non ampliamento degli orizzonti ma inquinamento crescente degli orizzonti, eccetera, eccetera. C'è un momento in cui questa svolta dolorosa, o forse questa presa di coscienza, non lo so, si manifesta, e quella svolta io la daterei intorno agli anni 70. Nel 1972 viene pubblicato un libro, che non è solo un libro, ma è anche un rapporto scientifico svolto da un gruppo di scienziati un organismo che si chiama Club di Roma. Il titolo del libro è Limits to the Growth, i limiti della crescita. Questi scienziati dicono: attenzione, che noi stiamo per entrare in un periodo che sarà lungo naturalmente, insomma, in una svolta storica di lungo periodo, nel corso della quale alcune delle risorse fondamentali si esauriranno. Tanto per cominciare, il petrolio. È un libro sulla questione petrolifera. Essenzialmente, gli scienziati del Club di Roma dicono: la crescita infinita è un'illusione pericolosa, perché non è possibile una crescita economica senza limiti dal momento che semplicemente le risorse del pianeta sono limitate. E dunque, a un certo punto dovremo rendercene conto e adottare un modello di sviluppo differente che non punti unicamente sulla crescita. Siamo nel 1972 quando... Orpo, come passa il tempo? Quando gli scienziati del Club di Roma scrivono questo testo. L'anno dopo, 1973, esplode la guerra nel Medio Oriente tra siriani, egiziani e israeliani, la cosiddetta guerra dello Yom Kippur, e per la prima volta il petrolio scompare dai mercati internazionali. Lo shock petrolifero più impressionante che si sia mai verificato, io me lo ricordo, avevo 23 anni, e mi ricordo che nel periodo subito successivo venne proibito l'uso delle automobili a targhe alterne, sabato e domenica non si poteva circolare in automobile, non si poteva accendere il riscaldamento se non in certe condizioni, eccetera. Periodo bellissimo nella mia memoria, la gente che andava in biciclette, cavalli addirittura, qualcuno aveva ritirato fuori il cavallo, il calesse, comunque insomma, però contemporaneamente la improvvisa consapevolezza del fatto che è quello che hanno scritto l'anno scorso quei matti del Club di Roma, eccolo qua, il primo annuncio. Negli anni successivi l'economia nel suo complesso entra in una fase di crisi, di stagnazione, di recessione, di inflazione, e nel 1977 una serie di eventi di vario genere sembrano come cambiare la percezione. Per la prima volta entra nell'uso il termine precario, ad esempio, come parola socialmente significativa, oppure un gruppo di musicisti inglesi che probabilmente conoscete e che prendono il nome di Sex Pistols, lanciano questa specie di grido culturale che è No Future, No Future. Ecco, tutto ad un tratto la percezione del futuro cambia negli anni 70. E negli anni 80 in America viene fuori un gruppo che si chiama Tredicesima Generazione, 13th Generation, perché se calcolate dall'origine degli Stati Uniti d'America, 1776, fino agli anni 70, in questi 2 secoli si sarebbero succedute, è difficile definire una generazione, ma insomma, 13 generazioni, calcolando la generazione intorno ai 25 anni, ecco, quella è la 13ª generazione. E il tema che intellettuali, adesso non so bene che cosa, io ho letto i loro documenti allora, ma non so che storia abbia avuto poi questo gruppo 13ª generazione. Ciò che loro sostenevano è che per la prima volta nella storia umana la 13ª generazione degli Stati Uniti cresce sapendo che avrà a disposizione meno merci, possibilità, conoscenze, eccetera, di quello che ha avuto. Conoscenze no, ma certamente meno mezzi, meno possibilità materiali di quelle che hanno avuto la generazione immediatamente precedente. Effettivamente noi sappiamo oggi che la vostra generazione essenzialmente si aspetta, poi magari questo non riguarda i destini individuali, naturalmente, e non è nemmeno inevitabile, però l'aspettativa di vita, di consumo, di ricchezza in un senso ampio, tende per la prima volta verso un restringimento. Questo è un mutamento culturale molto profondo, che viene registrato essenzialmente dalla cultura punk. Il punk è poi la registrazione rabbiosa, dolorosa, talvolta cosciente di questa tendenza. Bene, il testo di Bill Joy mi è sempre parso molto interessante, anche perché in qualche modo è un discorso sul futuro, cioè tutto ad un tratto un rappresentante di prima fila della cultura e dell'economia high-tech, diciamo digitale nel suo caso, si pone di fronte alle implicazioni, alle possibilità, alle potenzialità negative, in senso, in quel caso proprio direttamente negative per l'umano, che sono implicite nelle nuove tecnologie. Ecco, la rivista tecnofila per eccellenza, Wired, ospita in quel caso un articolo tecnofobo, decisamente tecnofobo, che segnala una sorta di contrazione nella percezione stessa del futuro. Ecco, Io direi che in questo modo abbiamo aggiunto alcuni elementi alla definizione dell'espressione cyberpunk. Ecco, nel cyberpunk, come nel punk in generale, è implicita una ridefinizione, un reframing, come si dice. Una trasformazione della cornice di aspettative culturali relative al futuro. Ecco, il punk in generale si insomma rappresenta questo tipo di ridefinizione. Il cyberpunk ridefinisce il futuro rispetto alle tecnologie cyber. Ma io direi che la facciamo finita qua, anche perché siamo rimasti in pochi. E, ecco, niente, io tanto continuerò, devo dire, ad andare, come vedete, un po' avanti e indietro. L'ambito cronologico della nostra analisi, della nostra ricerca, quello abbastanza limitato, che va dagli anni 80 ai nostri anni, agli anni 2000, e quindi continuerò a scavare in alcuni aspetti che riguardano lo sviluppo delle tecnologie, il rapporto fra sviluppo delle tecnologie e dimensione sociale. Però vorrei poi, e questo adesso diciamo che bisognerà cominciare a farlo, vorrei poi entrare nel merito di alcune visioni letterarie particolari, ecco, almeno fare un discorso su William Gibson e quindi il vero e proprio cyberpunk, ma anche su autori come James Ballard o come Philip Dick, che accompagnano in qualche maniera l'emergere del cyberpunk. E per fare questo Antonio Caronia sarà certamente il nostro riferimento privilegiato. Grazie dell'attenzione.